Voglio dire due parole a proposito del transfert. Una bambina ha un padre che la tiene a distanza, la bambina cerca di avvicinarsi a suo padre e suo padre dopo poco la allontana. Quindi non vede la bambina, non la riconosce come oggetto d'amore e quindi la bambina impara dal padre che lei non ha valore, insomma, perché impara a vedersi con gli occhi del padre. Benissimo. Da adulta cosa cercherà? Cercherà, si innamorerà di uomini che non la vedono, che la tengono a distanza e questa gestalt rimasta aperta a conquistare il padre verrà riprodotta col partner. La cosa interessante è che quando un uomo si avvicinerà a questa bambina con affetto e amore, a questa donna adulta con affetto e amore reali, questa donna riconoscerà che l'affetto è l'amore dell'uomo, ma non si innamorerà. L'innamoramento è una riedizione delle dinamiche infantili. Si innamorerà quando l'adulto, l'uomo che incontra, ha delle caratteristiche tali da richiamargli la figura del padre. E in questo caso dovrà avere qualche aspetto di rifiuto. Quindi che cosa succede? Questo è l'aspetto del copione. Il copione tende quindi a essere circolare, ripetitivo all'infinito. Cosa significa? Che questa bambina diventata donna andrà a cercare sempre quelle persone di cui si innamorerà che la rifiuteranno. E se la cosa è grave, è intensa, avrà proprio bisogno di queste e ne diventerà dipendente. Non ha soluzione ovviamente la cosa perché va a cercare proprio ciò che la ferirà. E la ferita aumenterà il suo senso di indegnità e quindi si tratta di un loop, di un tanto più, tanto più. Come si esce da questo? Si esce, beh, ben noto, non praticando più la ricerca dell'amore fuori, ma praticandolo proprio interno. No? Quello che non hai avuto da fuori, la bambina lo deve avere da dentro, da chi? Da parte dell'adulta che finalmente vede la realtà così come è. Mi interessava in questo momento far vedere come il transfert è un esempio classico di confusione. Confusione che in PNL è proprio analizzabile, molto, molto chiaro. La donna incontra un uomo, quando vede quest'uomo che in qualche modo richiama suo padre, in realtà non lo vede più com'è, così com'è, ma lo vede attraverso questo filtro, attraverso questa lente deformante. Quindi vede quest'uomo, ma lo vede attraverso la lente deformante del suo rapporto col padre. Che cosa succede? Che abbiamo una confusione. Perché quello che succedeva nel passato, un evento di 20 anni prima, 30 anni prima, 40 anni prima, è mantenuto attuale, come se fosse ancora valido, è messo in un luogo che non c'entra niente. Quello è un uomo adulto, mentre l'altro è un rapporto con una bambina. Questo è un esempio classico di confusione.